Linee d'ombra di Matteo Caccia. State ascoltando lo speciale di Linee d'ombra del sabato, quello che è dedicato alla nostra storia seriale. Questa è la storia seriale che parla della gola, che parla del vizio della gola, e anche l'ultima che parla dei vizi capitali. Li abbiamo frequentati tutti e sette, questo è appunto l'ultimo. Mauro Pescio ha raccolto sette storie diverse di sette persone che in qualche modo incarnavano uno dei vizi capitali. Dalla prossima le storie saranno storie che, come i vostri racconti che raccontiamo tutti i giorni in Linee d'ombra, hanno a che fare con un confine, con il passaggio di una linea. Questa però è la storia di Anna Maria. Anna Maria è una donna che a un certo punto della sua vita, molto in là con l'età rispetto a quello che succede di solito, ha deciso di dedicarsi alla anoressia, ma di dedicarcisi con metodo, perché per lei era l'unico modo per porre fine a una sofferenza alla quale non riusciva più a fare fronte, e quindi decide meticolosamente di farla finita, e a un certo punto entra in una comunità. Esatto. E come facevi? Riduco sempre di più le porzioni. Mi siedo, allora, un discorso è non mangio più, no, così, no, colà. E quindi tutti se ne accorgono. Un discorso è sedersi a tavola e ridurre sempre di più le porzioni. Poi in famiglia di solito è sempre la mamma, quella che magari più vicina si alza. Ma tu ti sei messo poco? Sì, perché è lì nella pentola, poi lo mangio dopo. Andate pure che sbarazzo io, che pulisco io. Quindi poi nessuno vedeva che buttavi via le tue porzioni, le tue cose. Anche in questo caso faccio tutto in maniera scientifica, senza farmi vedere. Imparo tutta una serie di gesti che sono rituali nelle persone anoressiche. Indosso maglioni molto ampi. Quando mi rendo conto che iniziano a ballarmi i vestiti, penso che si veda troppo e allora metto un maglioncino sopra ad un altro maglioncino. Al posto del solito look di camicia bianca e gonna nera, cambio il taglio della gonna, acquisto capi più svasati che disegnano meno le forme. Così appaio sempre perfetta, sempre con un abbigliamento che mi consenta di andare in azienda senza nessun problema, ma con tagli diversi. Avevo la fortuna di partire già da una costituzione abbastanza magra, e per i primi tempi non mi è difficile nascondere la mia magrezza. Io fisicamente notavo dei cambiamenti, ma li vedevo soltanto io. Ero così brava a nascondere tutto che non ho cambiato le abitudini della famiglia. Cucinavo sempre per tutti, apparecchiavo la tavola con cura, avevo le mie piantine di erbe aromatiche sul davanzale, per tutti gli altri insomma non stava cambiando nulla, ma per me sì. Vedo che si vedono proprio, sai, quando hai in quelle cose che un giorno mia mamma diceva Biafra, no? Sai, quando eravamo piccoli, no? Quando eri magra, diceva sei Biafra. Quindi si vede l'età che abbiamo dai riferimenti anche geografici, e vedo proprio, si vede qui tutta la parte della clavicola. Obiettivamente ero veramente magra, ero asciutta. Poi cos'è che c'è? Che io avevo fatto atletica per tanti anni, facevo i 100, e ecco, però su più bello che riuscivo a ottenere dei buoni risultati, e si trattava di andare fuori in trasferta, mia mamma mi diceva no, non si va a dormire fuori, le brave ragazze non vanno a dormire fuori. Allora ho fatto pallavolo, anche qui bellissimo, entri in prima squadra, fai no, fuori non si va a dormire, quindi mi capisci? Era tutto, vabbè, ok. E quindi io andavo in palestra, quindi facevo un po' di attività, camminavo un po', quindi ero comunque definita nei muscoli, no? Per cui era sì un mago, però insomma. Poi mi truccavo sempre, ero sempre, non ero macciata, le cose, quindi non, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma mentre vivevo questo mio piano, mi sono resa conto che stavo perdendo le redini della situazione. Il disagio era troppo profondo. Il dolore che avevo dentro, questo precipitare continuo, era così forte che non riuscivo più a gestirlo. Con l'andare del tempo mi sono resa conto che non sarei riuscita ad arrivare alla fine. Avrei perso. La mia paura era che avrei perso completamente le redini, avrei perso completamente la gestione della situazione, e che qualcuno sarebbe potuto intervenire prendendo dei provvedimenti al mio posto o ricoverandomi forzatamente. Se così fosse stato, avrei dovuto lasciare ad altri le mie decisioni e il mio proposito non sarebbe arrivato a termine. Per cui ho detto, no, facciamo una cosa diversa. Mi ricovero io, e così conclamata questa cosa, e può continuare. Wanna wake up and know where I'm going. Say I'm ready, say I'm ready. Wanna go where the rivers are overflowing. I'll be ready, I'll be ready. I'm ready. wash over me. I'm ready to let the rivers wash over me. If it's love flowing freely, I'm ready, I'm ready. If the waters can redeem me, I'm ready, I'm ready. I'm ready to let the rivers wash over me. I'm ready to let the rivers wash over me. Persone malate di anoressia hanno fatto anni della loro vita nei reparti di psichiatria che poi sono morte, quindi era perfetto così. Per cui ho contattato un professionista e gli ho manifestato, diciamo, un po' di quello che stavo, cioè ovviamente non il piano, perché sennò esatto. Ho chiesto aiuto, ma per continuare. Sì, esatto. Cioè di chiedere aiuto per salvarmi, aiutarti. No. Non, cioè, non prendevi in considerazione che fosse possibile. No. Io avevo dato per scontato che la mia situazione fosse irrecuperabile e il dolore che provavo era troppo devastante. Mi stava veramente mangiando l'anima e quindi bisognava in qualche modo gestirlo o accelerare la situazione. Ma facendolo strategicamente saresti finito sul lunghissimo periodo. Oppure facendo in modo che a questo punto le autorità, chi poteva dire che effettivamente stavo male, sarebbero intervenute. In un altro modo. Così facendo, pensavo, avrei avuto l'avallo, quindi avrei potuto anche decidere di prendere farmaci e anche avrei potuto decidere di non mangiare proprio più del tutto. Pensavo, nel momento in cui qualcuno mi dice che sono ammalata, io finalmente posso uscire allo scoperto e comportarmi in tutto e per tutto da ammalata. Tutto si sarebbe velocizzato, il percorso sarebbe stato molto più facile. Al colloquio per entrare in una clinica psichiatrica ho raccontato alcune cose di quello che stavo vivendo. Il medico mi ha risposto: signora, sarebbe il caso che lei si ricoverasse. Ed è andato tutto secondo i piani. Hanno fatto un po' di misure, un po' di cose così, sai, con le pinze che ti misurano i grassi, le cose così. E, diciamo, quando, per prendere un pochino il peso, ci sono anche... ha un nome questa pinza, però non la ricordo. E ti misurano, ti prendono un pochino qui della ciccia che hai, no? In base a quanta ciccia prendono, si vince un po' la massa, diciamo, no? L'indice di massa corporea, o comunque quanto grasso bruno tu hai. E la pinza sfuggiva, per cui proprio non ce n'era, non ce n'era. Mi disse il medico che la mia situazione poteva precipitare di lì a breve. Lui pensava di spaventarmi, ma io mi sentivo molto rassicurata invece dalle sue parole. Voleva dire che stavo andando bene nella mia direzione. Avevo ancora il ciclo quando mi sono ricoverata e mi disse che questa era una buona notizia, che io al contrario giudicai come un mio personale fallimento. Voleva dire che il mio corpo non si era ancora messo in sicurezza. E quindi mi hanno ricoverata. E c'è una struttura che c'è qui a Padova, a Teolo in realtà, in provincia, si chiama Parco dei Tigli, che sempre fa parte sempre delle battute di tutti. Pochi sanno di questo ricovero, per cui tanto quando mi dico, quando mi vedono sempre di corsa così, fa Madonna Santa, ne fai una più di Bertoldo, finirai il Parco dei Tigli. E allora gli dico, ci sono già stata e sono anche certificata, perché e allora finisce proprio così, no? Come dire, voi siete tutti matti, ma io ho il timbro che lo sono sul serio, per cui solo io posso dire che lo sono. Non avevo messo in conto che l'approccio con dei professionisti che hanno iniziato a scavare dentro di me mi avrebbe fatto cambiare idea. These were falling just like embers in colors red and gold, they set us on fire, burning just like a moonbeam in our eyes. Somebody said they saw me swinging the world by the tail, bouncing over a white cloud, killing the blues. Now da subito inizio i colloqui, le attività all'interno della struttura, con le passeggiate, con il cibo che dovevi mangiare molto molto preciso, con un'infermiera che controllava che prendessi tutte le terapie, facessi tutte le attività e mangiassi tutto quello che mi portavano. Controllava anche che non avessi con me oggetti per procurarmi lesioni di nessun tipo. Le persone che soffrono di disturbo del comportamento alimentare spesso sono anche autolesioniste. Arrivo lì e il protocollo è proprio quello, cioè ti fanno mangiare, ti danno i farmaci, fanno i colloqui con psicologi e psichiatri. È proprio un reparto di psichiatria, io sono stata ricoverata 3 mesi. E allora, il Parco dei Tigli è stato uno dei primi nel Veneto, credo addirittura in Italia, ad avere un piano proprio dedicato ai disturbi del comportamento alimentare. E io ero nel reparto, nel piano, anzi, piano barra reparto, era l'ultimo, il quarto, delle anoressiche. Non c'era alternativa da quel punto di vista. In stanza con me c'erano delle ragazze che avevano delle cicatrici pazzesche e quindi l'infermiera mi controllava tutti i giorni. E quindi ti controllano qualsiasi cosa, anche una penna stilografica. Per esempio, io amo scrivere con la penna stilografica. Mi ricordo che Anna, era l'infermiera appunto che mi controlla tutte le cose, disse: ok, la pinzetta delle sopracciglia te la do io, la stilografica te la do io. Cioè, mi aveva tolto delle cose perché potevano essere utilizzate, strumenti. Esatto, armi, ma sì. Contro di sé, non contro, certo, gli altri. Sì, sì. La paura è, non c'è mai questa cosa di dire è una cosa contro gli altri, no? Un anoressico non fa mai niente di, in questo caso, non ti viene l'idea di far male a qualcun altro. Fai male a te e basta, perché il tuo oggetto, appunto, del desiderio della distruzione sei tu, fine. Che sia conscia o non inconscia, nel mio caso era proprio conscia, al di là di ogni ragionevole dubbio. Mio marito a quel punto prende consapevolezza di quello che mi sta accadendo, capisce che c'è un problema molto importante e mi sta molto vicino. Appena può viene a trovarmi in ospedale insieme ai miei figli che sono ancora piccoli. Anche mia sorella è venuta a trovarmi una volta e anche mio papà è venuto una volta. Mia mamma invece, in quasi 4 mesi di degenza. Mia mamma non è mai venuta, perché ero in un... dove c'erano i matti. Ma te sono matti, nella mia famiglia non ci sono matti, fine della trasmissione. Anche in quel caso la compassione, mia mamma non è una donna cattiva, è anaffettiva, cioè, e in un momento del genere scatta la compassione, secondo me, cioè compatisco con te, cioè nel senso ho un minimo di pathos, ritornando all'etimologia della parola, no? Invece proprio non c'era il giudizio. Hai i pantaloni macchiati di verde? Sei un, scusa, come si dice a Venezia, un troione da sbarco. Sei in un manicomio? Sei matta? Nella mia famiglia non ci sono né questi né questi. Fine. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore insieme a Radio 24 e Radio Core sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Cremona ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda sociosanitaria territoriale di Cremona, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo. Hashtag sole per ospedale Cremona. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Linee d'ombra. State ascoltando la storia di Anna Maria, la storia che vi raccontiamo tutti i giorni a Linee d'ombra, dalle 15 alle 16. In chiusura di ogni puntata c'è una storia seriale. Questa storia seriale è la storia di Anna Maria, credo sia ormai la quinta settimana in cui lei ci sta raccontando a Mauro Pescio e quindi lui a noi e noi a voi, come ha fatto, come ha messo in atto questa sua strategia, una strategia di fatto di autodistruzione che fortunatamente in queste nuove puntate, in questi ultimi episodi, sta lentamente cambiando. Io non avevo messo in conto, quando ho iniziato questo percorso, perché le prime settimane ero scientifica nella cosa, ho detto ok, perfetto, adesso loro mi ricoverano, mi fanno fare queste cose qui, prendo le medicine, ma non posso anche non prenderle, nel senso, assistono quando tu assumi farmaci, per cui non è che tu dopo le metti in tasca, le dai al gatto, come ogni tanto ti fanno vedere, cioè è tutto molto serio, ti mandi giù e guardano che tu non abbia cose strane, sì, che sì. Sai, ti fanno parlare perché devi deglutire per definizione, sì, ecco, sì, quindi non era una cosa, uno scherzo. Però dici, poi quando torno è tutta la strada spianata. Nel frattempo in questo reparto conosco delle altre ragazze con disturbi alimentari e imparo i loro trucchi. In particolare leggo con una ragazza bellissima e molto giovane con dei lineamenti perfetti. Lei, a differenza mia, diceva che in fondo voleva salvarsi, ma quando ci siamo conosciute pesava 36 kg. Mi raccontava di come per lei non mangiare fosse una guerriglia quotidiana. Non una guerra, mi diceva, dove tutti i giorni ci sono gli attacchi, ma una guerriglia fatta di attese e imboscate, ritirate e azioni non conclamate. Lei utilizzava questa strategia per non permettere a nessuno di accorgersi di che cosa stava accadendo. Non permetti a chi ti sta vicino di riconoscere il problema perché non gli dai modo di vederlo. Non dichiari guerra al cibo, ma lavori contro il tuo corpo in maniera sotterranea, segreta. I suoi racconti mi danno molti spunti e informazioni su come andare avanti una volta che sarò fuori. Avevo capito che l'autolesionismo per molte di loro era una maniera di chiedere aiuto. I tagli sulle braccia si vedono, il sangue lascia tracce e io non volevo invece chiedere aiuto. Ho sempre evitato i tagli per questo motivo. Ti tagli, poi vedono che ti tagli, poi si concentrano sul fatto che ti tagli, per cui sei ancora più sotto i riflettori, evita. Era questo il pensiero. Cioè, il tuo scopo è arrivare a questo. Questo serve? No, e allora non tagliarti. Molto, come dire, molto semplicemente. Quando avevo tentato il suicidio, infatti, avevo visto le percentuali di... Il farmaco era sicuramente quello che dava delle chance maggiori. Se ti tagli le vene, non tagli la vene. Innanzitutto devi essere bravi a tagliarsi le vene. Poi bisogna essere nella vasca da bagno con l'acqua calda. Che chi è che ti lascia in casa con mia mamma 4 ore in vasca da bagno? Non esiste, per cui saresti stato sgamato immediatamente. E quindi, anche in questo caso, scientifico. Taglio col coltello il buio tutto intorno, tanto so che quando torna il giorno sarà solo il ricordo di qualcosa che avrei avuto ed ho perso. Dovunque vado sono via e chiedo alle mie mani di fermare il battito del cuore, perché il mio cervello non sopporta più il rumore che mi porta indietro al tempo in cui le ore mi passavano leggere e mi ripeto. Fra due punti diversissimi ed opposti fra di loro, disperati come missili sparati verso cieli lontanissimi, al di là delle galassie dentro un buco nero. Somigliano alle vite che percorri tutto in un momento, non sai capire dove sei arrivato, ma sei sicuro che ora stai correndo. Succede però che incontro quella signora di cui ho scritto, che lei ha cominciato a raccontarmi tutta una serie di... lei ha cominciato a utilizzarmi per stare meglio e tutti i pomeriggi parlavamo, chiacchieravamo. Tanto che dopo un po', quando c'è stata quella battuta, no, col professore che mi diceva mi stanno dicendo che mi sta portando via il lavoro, lei disse: è troppo comodo essere malati. E è stata questa frase che mi ha aperto un mondo diverso. E ho detto: cavolo, ha ragione. Questa signora diventa un po' più di una compagna di reparto. L'incontro con lei mi ha aperto a domande che non avevo avuto il coraggio di pormi, e tutto quello che fino a quel momento avevo cercato di nascondere, di mettere sotto il tappeto per non mostrarlo o per paura di affrontarlo, è uscito fuori tutto in una volta. Mi sono accorta che anche se avessi portato a termine il mio piano, per me le cose non si sarebbero comunque risolte. Per risolverle mi sarebbe servito uno sforzo ancora più grosso. Cioè, io tutto questo non l'ho affrontato. Mi sono travestita da perfezione, ma ho solo messo un pochino di cipria sopra quelle macerie. Le macerie sono ancora lì, ma quando morirò, io morirò portandomi dietro tutte queste macerie, e quindi non va bene. Tutte quelle macerie nascondevano anche la domanda principale, quella che mi portava avanti dall'infanzia: ma io chi sono? Stavo prendendo consapevolezza che non mi era mai stato concesso di esprimermi veramente come avrei voluto, se non a spizzichi e bocconi. Per la prima volta stavo mettendo in discussione tutto. Se voglio essere io, mi sono detta, se voglio quantomeno prendere coscienza di me, se voglio riconoscermi allo specchio, ho la possibilità di farlo. Ho messo in conto anche che nel momento in cui io fossi arrivata a conoscermi, avrei potuto anche non piacermi o scoprirmi come la persona più disdicevole sulla faccia della terra, ma almeno avrei saputo qualcosa di me. E la seconda frase che mi disse è stata che manicomio è quello che leggono solo quelli che sono fuori. E quindi la riflessione è stata: è vero, ha perfettamente ragione, questo non è un manicomio. Avevo sempre basato la mia vita sui giudizi che gli altri davano di me. Mi ero adeguata per essere accettata, ma nel momento in cui avevo preso consapevolezza di questa cosa, dovevo comprendere esattamente chi fossi, senza il bisogno dell'approvazione di nessuno. Possono metterti addosso tutte le etichette del mondo, quella della prostituta, quella della che va in giro a fare le cose strane, ti possono mettere della terrorista, cioè ti possono mettere tutte le etichette del mondo, positive o negative, ma solo tu sai veramente chi sei. A questo punto ho cominciato a, quando lei proprio è uscita, ho cominciato a dire: ok, visto che ho affrontato tutto sempre in modo scientifico per essere sempre migliore, non posso non provarci. Potete riascoltare la storia di Anna Maria, se avete voglia, in un unico pacchetto da 5 storie alla volta, le 5 episodi della settimana raccolti in un unico pacchetto sul nostro sito Linee d'Ombra, oppure sulla nostra app, quella di Radio 24, o ovunque voi vi scarichiate il vostro podcast. Altrimenti, se avete voglia di sentirvi la puntata per estesa, per intera, l'appuntamento è per lunedì alle 15 per raccontare storie, perché rimane il modo migliore per stare su e per conoscere il mondo. Viva!